potete iscrivervi alla Biblioteca Provinciale, l'iscrizione è gratuita. La missione della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, per chi non la conoscesse, è la raccolta e la promozione e la diffusione di materiale di attinenza locale, quindi la promozione anche di autori locali. E attraverso queste serate noi facciamo appunto la promozione delle opere degli autori che scrivono sul nostro territorio, autori del nostro territorio. Attraverso l'iscrizione potete usufruire ovviamente di tutti i servizi, il prestito, la consultazione, l'utilizzo anche delle postazioni internet all'interno della biblioteca. Vi ricordo le prossime serate, trovate comunque l'invito sulla sedia a cui potete essere invitati attraverso l'iscrizione. Se siete iscritti appunto possiamo poi mandarvi anche l'invito, così sarete tenuti sempre al corrente. Le prossime serate sono lunedì 17 maggio alle 18 con la presentazione del libro di Marco Bonatti, Dalla Tetide alle Dolomiti, un viaggio lungo 300 milioni di anni. Il 25 maggio, eccezionalmente il martedì, perché solitamente le nostre serate sono di lunedì, il libro di Alessandro Tamburini, Quel che so di Adonai. E ora vi lascio la parola alla signora Maddalena Bertolini per l'introduzione al libro di questa sera, il libro di Francesco Roat, che l'elegia di Rilke tra angeli e finitudine. Vi auguro una buona serata e spero di rivedervi alla biblioteca e di potervi essere utile insieme ai colleghi per i servizi che la biblioteca può offrire. Grazie. Questa parola finitudine non l'ho mai avuta in pratica. Prego. Cos'è la finitudine? La finitudine indica l'umana finitezza, cioè il destino umano, che naturalmente è scritto in termini temporali. Finitudine che è il contrario di eternità, finitudine che è il contrario di permanenza, finitudine nel senso di destino comune di tutte le cose che hanno una fine. È parola aulica un po', ma vuol dire quello. È la prima volta che la sento. C'è sul vocabolario, non è un neologismo. Noi siamo qui per presentare appunto questo libro, Le elegie tra angeli e finitudine. E per prima cosa io voglio ringraziarvi sicuramente, perché non è facile parlare di poesia, tantomeno parlare di una poesia come quella di Rilke. Presuppone parlare di poesia un pubblico speciale, che abbia un orecchio sensibile e un cuore aperto. Questa poesia poi di Rilke necessita anche un pochino di fatica, poiché non è facilmente, non vi si entra facilmente, ha la necessità di sostare e lasciarsi permeare. Ecco, anche per questo motivo voglio ringraziare l'editore che ha consentito questo lavoro. Di traduzioni di Rilke ce ne sono altre in giro. È quindi stata una sfida importante raccogliere l'ennesima traduzione, come una sfida a questo incontro, perché parlare in terra tedesca di una traduzione italiana di un autore tedesco, insomma, per chi ne parla è una, appunto, una bella sfida. Parliamo di Rilke. Poeta filosofo, poesia filosofia, mi verrebbe da dire, proprio sbarrata. Indubbiamente il maggior poeta tedesco del secolo passato. E, tedesco, ma forse in quell'epoca in cui è vissuto, la definizione di tedesco per Rilke era stretta. Lui infatti ha girato molto, nato in Germania, però ha risiedete a Parigi, è stato in Italia, ha viaggiato in Spagna e per conoscere meglio Tolstoi e ciò che scriveva, perché era appassionato dei russi, ha deciso di prendere e andare a vedere le piane russe e nel descrivere le piane russe dice: io mi sento profondamente russo. Allora diciamo, poeta tedesco? Beh, insomma, possiamo anche avere dei dubbi su questa definizione. Era sostanzialmente un apolide, un poeta senza casa, sposato, poi lasciato. Queste elegie sono state composte in un castello, nel castello di una contessa, Turmuntaxis, che l'ha accolto. In un primo tempo, nel 22, ha scritto le prime due e ha accennato i versi delle ultime, poi lui ne parlerà più specificamente, che su questo è ferratissimo. Ma sono state completate 10 anni dopo, e 10 anni dopo non sono 10 anni facili per l'Europa, sono i 10 anni in cui è passata la bufera della prima guerra mondiale. Ecco, in questa prospettiva noi possiamo vedere Rilke e la sua poesia, in questa prospettiva di passaggio tra l'ideale dell'Ottocento e il massacro del Novecento, e cioè uscire dal romanticismo perfetto di Novalis, in cui si aspirava alla purezza, passare per il romanticismo più irruente di Goethe, è importantissimo, per poi scivolare nel simbolismo. Rilke viene definito poeta simbolista, però perché appunto in quell'epoca che si è passati al simbolismo, ma come si fa a definire simbolista Rilke? Come si fa a non prendere in considerazione il suo aspetto romantico? E ci sono dei suoi brani che sono estremamente romantici. Possiamo proprio, e qui mi fermerei un attimo, per sentire questa sua nota, buttare lì l'inizio. Cosa dice Francesco? Sì, ed ecco il famoso inizio della prima elegia nella mia traduzione, fatta peraltro con un professore di Berlino che ha sposato in vita sua un paio di italiane, non contemporaneamente, non si può, una alla volta, e che ha lavorato moltissimo. Chi se gridassi mi sentirebbe poi dagli ordini degli angeli? E anche se uno mi stringesse improvvisamente al cuore, io svanirei davanti al suo più forte essere, poiché il bello non è che l'inizio del tremendo, che noi appena sopportiamo e ammiriamo tanto, perché calmo disdegna di distruggerci. Ogni angelo è tremendo. E così dunque mi freno e chiudo in gola il richiamo del cupo singhiozzo. Ahimè, di chi potremmo quindi giovarci? Non di angeli, non di uomini, e gli astuti animali lo comprendono già, che noi non ci sentiamo a casa nel mondo interpretato. Ci resta forse un albero qualsiasi sul pendio da rivedere ogni giorno. Ci resta la via di ieri e la fedeltà viziata ad una consuetudine cui piaceva stare con noi, e così rimase e non se ne andò via. Ecco, questa è soltanto praticamente parte della prima strofa, che apre appunto le duinesi, chiamate così, diceva Maddalena Bertolini, una poetessa peraltro, che ha appena... Poi continua. Sì, sì, certo. No, che ha appena pubblicato un suo bellissimo libro, Le mani nelle parole, di cui vi invito a leggere. Cos'è l'editore? Raffaelli editore. Prego, siamo appunto nel castello di Duino, vicino a Trieste. Mi deve lasciare parlare sia di Rilke che di lui. Ho fatto questa strada con un po' di fatica, perché proprio Rilke è un poeta che amo molto. L'ho amato sicuramente nei miei primi studi, poi l'ho riscoperto attraverso i russi, anzi attraverso Marina Svetaeva. E voi direte: cosa c'entra? Eppure la Svetaeva era innamorata di Rilke. C'è una interessante carteggio letterario che gli interessa. lei è poetessa da fuoco e romanticismo, non certo simbolista, che lo proclamava il suo profeta. Quasi innamorata di Rilke, di un amore platonico, per tanto tempo lei desiderò incontrarlo. E quando si organizzò alla fine, perché anche lei era esule a Parigi, e prima ancora a Praga, in Ungheria, e quando alla fine si decise ad andare, la raggiunse la notizia che era morto. Questo non l'addolerò più di tanto, nel senso che disse: questo amore resterà sempre puro e il suo volto sarà per me il volto stesso della poesia. Il volto stesso della poesia. Inseguirlo allora, andare a vedere cosa lei mi diceva. Dov'è il fuoco? Eppure c'è, abbiamo sentito il terribile, il fuoco, che sempre confina in un oltre. Rilke è pieno di epifanie, di aperture e di chiusure. È come nella sua musica ti prendesse e ti portasse. Ti porta per mano, o ti porta per il naso, se vuoi, dentro le nebbie della sua poesia, le nebbie orfiche che separano il reale dall'irreale, il presente dall'aldilà. E questa finitudine è detta, e il momento in cui è detta è smentita. Rilke, perché ascoltarlo? Perché tradurlo? Beh, è un atto d'amore. In effetti, indicibile, cioè è vero, non c'è altro motivo. Bisogna amarlo, Rilke. Anzi, bisogna essergli obbedienti. Bisogna proprio seguirlo. Quando Francesco mi disse che traduceva Rilke, io non gli ho chiesto perché lo fai, ma a cosa ti serve. Francesco è una persona molto intelligente sicuramente, ma soprattutto uno scrittore. È uno scrittore che ha vagato attraverso tutto un complesso percorso di scrittura. Ha 6 libri al suo attivo, è passato attraverso il romanzo, il racconto, il racconto lungo, è passato attraverso il saggio poetico su Anna Maria Farabi, questo si può definire un saggio poetico, è passato e continua a passare attraverso tutta una serie di articoli e di collaborazioni con i giornali, quindi critiche, un orecchio molto attento sulla letteratura di oggi, e so che adesso sta lavorando ancora a un altro saggio. Sì, su Robert Walser, altro personaggio particolare, scrittore e un po' mistico come Rilke, sebbene naturalmente di misticismo e di spiritualità del tutto un po' particolare, non quella a cui siamo abituati, insomma. Un mistico laico in un certo senso, anche se questa parola non mi piace, perché sembra quasi una contrapposizione fra religiosità e non religiosità. Cioè laicità vuol dire semplicemente non vestire un abito religioso, ma non vuol dire qualche cosa che è altro rispetto alla spiritualità. Il laico non è investito di una funzione specifica. In questo senso tutti coloro i quali non sono sacerdoti sono laici. Ma non vuol dire, come spesso oggi questa parola, no, viene usata, quasi laico colui il quale si oppone o è materialista o non vuole accedere ad una dimensione diversa da quella del dato oggettivo, della concretezza. Beh, comunque mistico, mistero hanno la stessa radice. Beh, viene da miste, che vuol dire in greco, e accenna allo tacere, allo stare zitti. Sì. È un dover in fondo tapparsi la bocca di fronte al mistero. Ma allora verrebbe da dire, ma c'è una contraddizione. se davanti al mistero in un certo senso rimaniamo stupiti e tacciamo, come mai c'è chi parla? Mi verrebbe da pensare. E perché se ne parla? Perché questa ricerca del mistero, se è indicibile? Ma il lavoro dei poeti è proprio andare a cercare l'indicibile. E il mistero sta in molti luoghi. Il mistero sta, per esempio, nel saggio che lui ha svolto su Anna Maria Farabi, che è una poetessa molto carnale, molto moderna, molto femminile, molto legata al corpo. Il mistero sta proprio nel corpo. Scrivere un saggio su Anna Maria Farabi, L'ape di luglio che scotta, è stato proprio andare a cercare il mistero della carnalità, come lei va a intrufolarsi, come rinasce e quello che ti porta. La contrapposizione di Rilke salta all'occhio, perché poco di carnale ha Rilke, è proprio un mistero mistico, misticismo. Rilke era un medium, aveva questo labilissimo confine tra anima e reale, tra appunto reale e irreale, al di qua e al di là. No, al di qua e al di là. Quindi a me è proprio saltata all'occhio questa sua ricerca in un ambito, per poi girarsi e ricercare nell'altro ambito. E chi meglio di Rilke, appunto? Questo poeta che appartiene all'oltre, che ti dice che appartiene all'oltre, che lo invoca, invoca gli angeli, che li accusa, e il momento in cui li accusa, li chiama. Ecco, e la vita è, come lui dice, un compimento? No, lui dice la vita è una consumazione, è un'attesa dell'oltre. Se per Anna Maria Farabi la vita è un'incarnazione, per Rilke è una consumazione, è l'attesa della fine. E qui mi viene in mente Paolo Febraro, un poeta del contemporaneo, che in una sua poesia dice: magari la fine fosse uno squillo di tromba e non questa infame lavatura, come se noi fossimo delle saponette che lavaggio dopo lavaggio arriviamo alla consumazione. Ecco, e siamo passati di nuovo nel moderno. Sto continuando a saltare tra l'Ottocento, i russi, addirittura prima, e questi poeti moderni, anche proprio per sottolineare il fatto come sia così legato tutto sommato Rilke al moderno, come ci dobbiamo fare i conti. E se appunto questo passaggio continua a ritornare nella poesia, e nella poesia femminile appunto ritorna in un corpo che si incarna, nel momento in cui si affronta Rilke lo troviamo in un corpo che si disincarna. Se la lingua italiana è una lingua potente, una lingua sensuale, una lingua ricca di sonorità, di rime, una lingua facile, tenera, sonora appunto, e i poeti italiani scrivono in questa lingua, l'affrontare Rilke con le sue immagini così mistiche, così ragionevoli, bisogna affrontarlo anche attraverso una lingua assolutamente diversa, una lingua come il tedesco, una che è lucida, complessa, mi verrebbe da dire maschile, una lingua che in Rilke non è culla, ma tomba. Non a caso le elegie vengono dal greco, cioè sono lamentazioni funebri. Rilke ha scritto le 10 elegie, subito dopo le ha fatte seguire dai requiem e poi alla fine ha ceduto al consumo della leucemia. un orfico, orfico, mistico, con la lanterna accesa che è sceso nell'oltretomba. Lui... Come Dante, da un certo punto di vista. Come Dante, con una lingua totalmente diversa. Una lingua che si pone a metà nel passaggio delle lingue slave. Sempre i russi dichiarano che il tedesco è una lingua proto-ariana e che dal tedesco nascono poi tutte le lingue slave. Il fulcro del passaggio dal proto-italico, un ponte con arcate perfette, con abissi di senso, logici, ragionevoli, che riportano in passaggi stretti e intraducibili per un italiano come il nostro, che invece è pieno di rimandi. Forse più classico dell'italiano stesso, no? Più stringente. E poi il tedesco è la lingua dei filosofi, è la lingua della filosofia per eccellenza, a parte la parentesi felicissima greca e a parte tutto quello che volete voi, però bene o male, se parliamo del Novecento, la lingua della filosofia è la lingua tedesca, è la lingua del logos, è la lingua della razionalità, è la lingua che cerca di spiegare e giunge alla fine del secolo XIX con Nietzsche, che proprio non a caso si pone a cavallo tra l'antichità e la modernità, che inaugura questo Novecento senza che lui lo veda perché morirà. E Nietzsche è il filosofo poeta che annuncia la morte di Dio. Ma che cosa vuol dire Nietzsche filosofo quando annuncia la morte di Dio? Non tanto la morte di un trascendente, di un altro, di un altrove, che ancora non è stato, come dire, non è possibile definire in termini umani. La morte della parola metafisica come parola forte, come parola sicura di sé, come parola che può condurre gli uomini, chiamiamola ideologia, chiamiamola come vogliamo. Dio è morto, dice Nietzsche, ovvero è morta l'illusione di poter fondare assolutamente un discorso. Ricordiamo la famosa frase, tutto è interpretazione, e anche questa è un'interpretazione, un bel gioco di parole paradossale che ci fa vedere come gli uomini che hanno varcato l'Ottocento e si sono aperti a questo secolo breve, il Novecento, tutto pieno di contraddizioni, che ha visto fascismo e nazismo da una parte, comunismo dall'altra, ideologie che poi si sono dissolte come neve al sole proprio all'interno di questo secolo. Il secolo dunque in cui la parola forte cede. E allora che cosa ci rimane? Forse ci rimane appunto la parola della poesia, che è una parola diversa, perché è una parola allusiva, perché è una parola metaforica, perché è una parola immaginifica, perché non pretende di chiudere, di conchiudere e di spiegare esaustivamente, di colmare, di riempire tutto lo spazio della significazione, ma lo lascia aperto, lo spalanca. Ma niente più difficile di tradurre poesia. È verissimo. Perché, e soprattutto una come questa, e quindi che non c'è soltanto la sfida di tradurre poesia, ma c'è anche la sfida appunto di prendere il tedesco e renderlo accessibile, addomesticarlo quasi alla lingua italiana. E in questo io devo dare molta ragione alla casa editrice che ha consentito questa pubblicazione e il realizzarsi di questo lavoro. E naturalmente devo dare molto merito e stima e apprezzamento al lavoro stesso di Francesco, perché diciamo che mai come in questa traduzione si accede a Rilke per noi italiani in maniera gradevole, senza però alterare troppo il testo. Si può vedere chiaramente, prendendo qualsiasi altra traduzione, la differenza, poiché spesso e volentieri un traduttore si trova davanti alla necessità di rendere sensata o di inserire in un tessuto narrativo scorrevole una idea, una epifania di un poeta. La tentazione è quella di addomesticarla, di ridurla all'idea che il traduttore in testa. Questo è difficilissimo. È necessario invece rispettare il testo del poeta. E io ho visto lui arrovellarsi per giorni su certe parole. Io su questo mi diceva, come lo traduco? Ma dico, ascolta, a un certo punto mettila lì e lascia che sia. No! Mi diceva, no, perché questo verbo può voler dire questo e anche quello. Le battaglie Trento-Berlino a colpi di telefonate, di email, alla fin fine nemmeno Engel sapevamo più se voleva dire Angelo o che cosa, perché ci spaventavamo persino di quello. Ma in effetti è proprio così. Rilke le chiamò le difficili elegie. Io non voglio spaventare nessuno, e anzi mi auguro che sia l'occasione per questa, per chi non ha letto il grandissimo poema, di leggerlo. C'è alla fine del saggio, con traduzione a fronte, cioè sia il testo tedesco che il testo in italiano. Apro una parentesi un po' triste, per un disguido purtroppo non abbiamo qui nemmeno una copia delle elegie di Rilke, ma vi invito alla libreria Cappelli, dove è in piazza Vittoria, ecco, e ce ne sono moltissime copie. Mi spiace moltissimo che stasera non le abbiamo qui, perché mi sarebbe piaciuto magari autografarne qualcuno, ma vi invito tutti, tra l'altro è un prezzo straordinario, faccio un po' di propaganda alla casa editrice, sono una dozzina di euro su un testo sia saggistico che poi riporta anche il testo dell'autore. Per cui mi raccomando, i prossimi giorni passate dalla libreria Cappelli. Andiamo avanti. E dopo questa nota che mi mette un attimo, riportandomi appunto al reale, torniamo nei piedi del nostro grandissimo poeta, che in realtà nebbie non sono. Anzi, per lui proprio la nebbia è semplicemente la caverna orfica in cui si tocca il reale più reale. Rilke è effettivamente un uomo che seduce. La tentazione di un traduttore è quello di renderlo proprio. Noi abbiamo delle grandi testimonianze anche di saggisti, noi italiani dobbiamo fare i conti indubbiamente con Guardini, che da grande cattolico l'ha guardato, l'ha spiegato, l'ha sgridato in certi punti, no? Ah, ti tiravo fuori da leggere un pezzettino, perché bisogna sempre leggere per le persone. Un attimino solo che ci arrivo, leggo, certo, questo pezzettino, perché volevo arrivare... E qua, guarda. Finire, sì, ce l'ho... Ma bravo. Finire questa... Appunto, la difficoltà di non fermarsi, cioè di non imporre la propria visione su una complessità come così vasta come può essere assolutamente Rilke, che non si può assolutamente definire né cristiano né laico, ma sicuramente un vate classico della classicità e dell'orfismo vero e proprio. È un filosofo anzi quasi di più, quasi un profeta. E ancora una volta e mi richiama questo pezzettino delle settime elegie che vi leggerò, un profeta che si ferma a guardare la realtà e poi continuamente la riconduce, ma non la guarda male oppure con tristezza, riesce comunque a averne uno sguardo pieno di amore, pieno di bellezza. Mi ha ricordato moltissimo, questo pezzo che vi leggo, il nostro Leopardi, che è un paragone un po' tosto, ma c'è. Prima quel piccolo iniziale suono interrogativo, quello, nel silenzio increscendo, che un puro giorno consenziente avvolge di pace. Poi su per i gradini, gradini di gridi che portano in alto verso il tempio sognato del futuro, poi il trillo, fontana che già anticipa la caduta nel getto in ascesa in un gioco promettente. E davanti a sé l'estate, non soltanto le mattine tutte dell'estate, non soltanto come esse si mutano in giorno e splendono d'inizio, non solo i giorni, che sono teneri attorno ai fiori, e in alto, dove si formano gli alberi, forti e possenti. Non solo la devozione di queste forze dispiegate, non solo i sentieri, non solo i prati nella sera, non solo, dopo un tardo temporale, la chiarità che spira, non solo la prossimità del sonno e un presagio di sera, ma le notti, ma le alte notti d'estate e le stelle della terra. Oh, un tempo essere morti e saperle infinitamente tutte le stelle, perché come, come dimenticarle? Il pastore errante dell'Asia, oh, chiare stelle, luna, la donzelletta che viene dalla campagna col sapore di temporale nell'aria, non c'è tutto qua? Com'è risuonante questo Rilke, come effettivamente ci sia questa domanda, questa poesia. E vi lancio ancora un'ultima sfida, come io ho... leggendola mi sono suonati dentro i nostri poeti, tra cui... la Svetaeva e Leopardi, che amo tantissimo, come mi è suonato dentro negli ultimi versi Luzzi, il salto nel Novecento. Allora, nella decina di versi finali splendidamente tradotti, gli ultimissimi, proprio gli ultimi quattro, che dicono: e noi che pensiamo a una felicità in ascesa, avvertiremmo la commozione che quasi ci sconcerta quando qualcosa di felice cade. La felicità in ascesa, qualcosa di felice cade. E Luzzi: vita fedele alla vita, tutto questo che le ha cresciuto in seno, dove va, mi chiedo, discende o sale a sbalzi verso il suo principio? Vita fedele alla vita. A me sembra che ci sia questo specchio incredibile. Ecco come mi colpisce, come mi sovviene, come proprio mi riempie il senso di questo tuo lavoro. Il riconoscimento. Non la riconoscenza, oltre il sentimento di come un poeta vero sia semplicemente specchio, immagine lucida e preziosa dell'umana, di tutto ciò a cui il senso del vivere ci chiama, di come tu, facendo questo, ti sei dimostrato un grande amico, un grande amante della poesia, sì, ma anche della vita. Grazie. Cerco di dire anch'io qualche parola su questo lavoro che mi ha impegnato alcuni anni, questa calata all'interno dell'opera più bella e più significativa di questo grandissimo poeta, che, come diceva giustamente Maddalena, non appartiene tanto solo all'area tedesca, allora all'impero asburgico, ma è un poeta universale. Non a caso prima si citava, con tutte le differenze del caso, Dante e la Divina Commedia, oppure potrei citare anche Goethe del Faust. Io credo che le Elegie duinesi si collochino giusto in questa prospettiva. Un dire che veramente cerca di avvicinarsi a quell'indicibile, a quell'inaudito di cui si accennava prima. Dunque, Duino, castello vicino a Trieste, dove Rilke è ospitato nel 1912, poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. E in questa solitudine, perché era uomo strano, amava stare da solo, e fu lasciato solo dalla contessa, posso immaginare, in un castello un po' al freddo, eccetera, eccetera, e lì di getto butta giù le prime due elegie, come preso da un raptus, come se fosse in una delle sue sedute spiritiche cui spesso si concedeva. Ma poi ecco, improvvisamente la sterilità lo prende, non riesce a procedere, non va avanti, si interrompe. Il periodo duinese è finito, E ne inizia un altro che con la poesia non ha più nulla a che fare. Inizia appunto la tragedia della Prima Guerra Mondiale che porterà allo sconvolgimento del mondo, lo sappiamo benissimo, facendo crollare tre imperi, l'impero tedesco, l'impero austro-ungarico, l'impero ottomano, lasciando la penisola balcanica nel caos, spezzando quello che era l'Austria, del A-I-O-U, Austria est imperare omni universo, questo era come facevano imparare le vocali ai bambini, e dell'Austria comandare in tutto il mondo. Finito quel sogno, finita l'illusione, ma prima accennavo, finita anche l'illusione della ragione umana che tutto amministra, che tutto spiega, che tutto governa, l'illusione fin dall'illuminismo e dal razionalismo prima, di poter appunto arrivare ad una società civile e fraterna fra gli uomini, governata dalla ragione, governata dalle forze sociali in equilibrio. No, tutto questo è franato. E dopo, 10 anni dopo, Rilke non direbbe che è strano, in un altro castello, sempre d'inverno, sempre ospitato, questa volta siamo in Svizzera, a Muzo, improvvisamente, sempre solo, non aveva nessuno, era proprio desolato questo castello svizzero. Rilke dice: come avrò fatto a mangiare in quel periodo, perché fosse Dio, un Dio mi ha aiutato. Ancora una volta di getto, ancora una volta ancora più, con una passionalità e una forza oltreumana, butta giù tutte quante le altre elegie, dalla terza alla decima, e finalmente termina, nel giro di qualche settimana, questa opera immensa, complessa, che davvero invito a leggere, ad onta della complessità e ad onta della difficoltà, perché ciò che è facile e banale lo vediamo già tutte le sere in televisione, nei telefilm americani e nelle pagliacciate. Io l'ho detto in varie presentazioni che ho avuto un po' in giro, questo testo si mette sul comodino la sera e se ne legge una pagina per sera come una sorta di breviario, e lo si deve meditare, non si può masticare così, bruciare così Rilke. Rilke va appoggiato lì, sullo scrittoio, sulla nostra scrivania, su una mensola, vicino alla nostra poltrona, e ogni sera prima di andare a dormire o dopo cena ci si ferma e si legge una strofa. È però quello che si deve fare per le poesie, ecco, che in noi generale non siamo più abituati a fare, cioè siamo abituati che tutto abbia un inizio e alla fine, e soprattutto siamo abituati che il testo ci racconti. Ci facciamo raccontare dal testo. La poesia invece non è questo. La poesia è proprio prenderne un frammento e lasciare che questa chiave spacchi il nostro cuore, che questa poesia sia come semplicemente girare una maniglia e che si apra una finestra, un'epifania, e che quello che c'è fuori illumini il nostro interno. Cioè, leggere di poesia è un lavoro che facciamo su di noi. Non è una cosa che ci viene appunto passata sopra, è una scoperta di quanto quello che il poeta dice illumina la nostra vita. Ci chiede un pochino la poesia, Rilke moltissimo, ci chiede questo sforzo, cioè ci dice: mi fido della tua intelligenza. È vero. E poi mi è piaciuto un termine che ha usato Maddalena Bertolini, parlava di Rilke come di sorta di profeta. Ed è proprio vero, profeta modernissimo certamente, profeta anche della crisi, perché non è risolto, ma forse tutti i profeti sono sempre profeti di qualcosa che deve venire. E per questo, e questo mi ha condotto a questo studio, che ripeto è durato 3 anni, proprio per cercare, come dire, di accompagnare chi legga nella comprensione, per quello che mi è stato possibile, delle elegie. Sono perciò, questo testo rappresenta, queste pagine rappresentano un avvicinamento a questa parola profetica. Ma vediamo che cosa. Però si diceva proprio l'altro giorno bevendo il caffè, a proposito di profezia, come questo spazio tra le due guerre mondiali sia estremamente profetico per i poeti, c'è Rilke, ma in quegli anni lì noi abbiamo Ungaretti col Porto Sepolto, noi abbiamo Montale, nel Cogliossi di Seppi, e sono di quegli anni lì, tra le due guerre, e quindi è proprio come appunto un urlo prima dell'estrema distruzione. Dopo il 45 cosa abbiamo? Il gruppo 63? Quando la poesia riprende fiato? Forse starei per dire proprio adesso, in questi ultimi anni, in questo nuovo secolo, che abbiamo delle voci veramente, veramente interessanti. Però sarebbe davvero bene che la gente si riaccostasse alla grande poesia. È un delitto, è un peccato, e userei questa parola, no? Dal significato un po' così, sembra di passatismo, è un peccato che la gente non si accosti più ad autori grandi come Rilke. Prima si diceva, ma le elegie, parola che deriva dal greco, che vuol dire canto lamentoso, canto triste, ma non v'è se non un accenno di tristezza, perché le elegie duinesi non sono tristi per nulla, semplicemente sono realistiche nel descrivere la condizione umana. La condizione umana, spiegavo prima alla signora in apertura, è nel segno della caducità, è nel segno del limite, è nel segno della breve durata, è nel segno di una parabola che purtroppo, ahimè, si spegne. Noi, dice Rilke, ci esaliamo di respiro in respiro. A che potremmo dunque aggrapparci, si chiede il poeta, e subito, vi ricordate, la mia prima lettura, angeli no. L'angelo è così lontano, è veramente la cifra dell'assolutamente altro per Rilke, che non possiamo nemmeno avvicinarci, non possiamo nemmeno guardarlo. L'angelo, che è il messaggero di Dio, è qualcosa che al limite è infinitamente più modesto rispetto al creatore. Dice Rilke, ma di Dio se tu potessi anche udire la voce non la sopporteresti, non la potresti sopportare. Ecco, dunque non è possibile illudersi di ricevere facile consolazione dall'angelo, e se noi cerchiamo in esso facile consolazione, non è questa la strada. Semmai è un angelo come quello di Tobia, che ci spinge ad un confronto, ad uno scontro, perché emerga l'autenticità in noi. E allora, se è vero che l'uomo è caratterizzato da una povertà essenziale, se è vero che tutto quello che abbiamo ci è solo dato in prestito e dobbiamo lasciarlo, e allora che cosa possiamo fare? Che cosa può fare, come questo poeta è alla ricerca appunto di un'autenticità, di una verità, di un senso profondo, e non si accontenta delle piccole cose, della banalità del vivere, che gli pare, come tutta una certa poesia ha sempre detto, nel segno della noia, del tedio, del fastidio. Ebbene, dice Rilke, ci sarebbero delle possibilità. Ad esempio, quando siamo fanciulli, il mondo per noi è tutta una scoperta, una meraviglia. Il bambino sorride, il neonato sorride, non piange. O se piange, piange perché non sta bene, perché ha fame, perché... Ma normalmente, e dopo ci pensano i maestri di scuola, i genitori, la pedagogia, la società, a mettergli la maschera pirandelliana, a renderlo inautentico. Immediatamente, ahimè, ai ai ai, non siamo più così spontanei. Dice Rilke, dove trovare allora l'autenticità e la spontaneità? Ah, ecco, forse negli amanti. È vero. Lì, seconda elegia. Lì, prego. La seconda elegia. Sì, beh, il tema degli amanti un po' c'è nelle prime. C'è anche nella terza, che è la più complessa di tutte, la più difficile. Però dice lì che purtroppo, ahimè, che cosa, usando un termine volgare, frega gli amanti? Il senso del possesso, il fatto che uno vuole imporsi all'altro, la gelosia, il voler comprendere nel senso di impossessarsi, di possedere, di avere, di legare. E qui dice purtroppo casca l'asino. Se l'amore fosse puro darsi l'un l'altro gratuito fino in fondo, allora sì, dice nell'elegia dei Santimbanchi, allora sì, sul tappeto meraviglioso gli amanti potrebbero fiorire. Dice, però purtroppo, dice, dopo la prima passeggiata, dopo i primi incontri, amanti, lo siete ancora? Dopo la consuetudine? E allora, in tutto questo consumarsi, in questo bambino che invecchia molto facilmente, negli amanti che sono nel momento iniziale dell'innamoramento, fanno fuoco e scintille, ma dopo, pappa riscaldata, che cosa ci rimane? Rilke allude ad un'altra figura che per noi oggi moderni è inavvicinabile, la figura dell'eroe. Non la voglio neanche pronunciare, perché oggi noi questa immagine ci infastidisce, la vediamo come qualcosa di bellicoso, come qualcosa di oppressivo, però se vediamo l'eroe come chi si sacrifica per l'altro, è già un'altra dimensione. E io penso che Rilke si riferisse a questo, l'eroe che non bade a sé, quello che non bade a sé, quello che difende la patria, quello che è in prima linea e al limite non ha paura delle pallottole. In questo senso buono, davvero l'eroe potrebbe raggiungere una sua pienezza autentica. Ma, dice l'eroe spesso, è troppo preso da questo suo slancio, si immedesima troppo in questa sua cosa, patisce troppo questa cosa. E allora che cosa fare? E allora come risolverlo? E allora dove trovare una situazione autentica? Rilke suggerisce una strada, suggerisce a tutti noi di vedere se vi è stato un momento nella nostra esistenza, anche un'ora soltanto, dice il poeta, ma che dico un'ora? Anche un istante, un pure istante in cui, dice, la vita è stata vissuta pienamente. E si rivolge alle donne di strada, alle prostitute, alle diseredate, come le chiama lui. E dice, anche voi che vi lamentate del marciume del mondo, che siete ormai disincantate, che non credete più all'amore, che non credete più a nulla, ma avrete avuto un istante, uno solo, in cui abbiate potuto dire. Ed è il famoso verso del Hier sein ist herrlich, esserci è meraviglioso. È la riappropriarsi del qui e ora, che non è legato ad un tesaurizzare, ad un cercare di trattenere. Il fiore dura poco, ma che splendore. Ma guai se lo vogliamo imbalsamare, guai se lo vogliamo racchiudere in quelle teche, non so di che materiale, plastico, che lo fissa per sempre. Noi abbiamo spesso questa vocazione, questa tendenza a fissare. La fotografia che cos'è? Non è il tentativo di fermare il tempo, che non si può fermare. Ma allora il segreto sta lì, nel non voler fossilizzare, nel non voler fermare, nel non volere ciò che non è possibile. E allora, in questa meraviglia, che è tipica ad esempio dell'animale, di creatura, la creatura la chiama Rilke, che ha sempre Dio davanti a sé, un'immagine meravigliosa, che dovunque cammina ha sempre Dio davanti a sé e si rivolge all'aperto, noi dovremmo riacquistare occhi nuovi per guardare alle cose. E allora, come ti dicevo venendo qui in macchina, di Maria Zambrano, altra scrittrice meravigliosa spagnola, allora in questo accogliere con un atto caritatevole, empatico, amoroso, tutto creato e creature, mondo e persone, noi possiamo assumere una dimensione di pietas, di caritas, di agape, che crea in noi, se non la felicità, se non altro la gioia. Ma bisognerà comunque che voi vi prendiate la briga di leggere le elegie per vedere passo per passo come Rilke dalla sofferenza, dalla finitudine, dalla delusione che l'angelo non ci indica più quale deve essere la strada, perché le stelle all'orizzonte della modernità e della postmodernità non ci sono più indicate in modo così chiaro, così netto, così preciso, perché il relativismo ci fa vedere che ogni visione dipende dal paradigma, dallo schema concettuale che noi abbiamo adottato. Ma se non vi sono più stelle all'orizzonte, beh, basta guardare verso questo mondo. E allora dice, qual è il compito mio in primo luogo, di me poeta, di me che uso la parola, dire le cose. Ad un certo punto Rilke dice a se stesso e al poeta: loda all'angelo il mondo, digli le cose. Non cercare di dire l'oltre, l'altrove, il metafisico. Digli le cose, stai, ecco, questo essere vicino alle cose. La terra ha bisogno di noi, i più effimeri. È questo che vuoi, terra, da noi, rinascere invisibile in noi. Ed ecco che noi, gli esseri più deboli, in un certo senso possiamo salvarlo, fra virgolette, il mondo, assumendolo dentro, facendolo rinascere dentro. E è chiaro che uno auspicia un vivere semplice, che non ha bisogno, che non ha bisogno di nulla in particolare, che non ha bisogno di raggiungere niente di speciale. Questa attenzione alle cose, questo miracolo dell'essere accanto alle cose. Ed ecco che si giunge, voglio farla breve, all'elegia conclusiva, dove anche qui si fa un percorso nell'aldilà, anche qui come Dante si va verso gli inferi, anche qui si accompagna un giovane morto nel paese dei morti, l'altro regno, come lo chiama Rilke. Ma solo noi, dice Rilke, vediamo e distinguiamo fra questo regno e l'altro regno. Gli angeli non sanno se camminano in questo o nell'altro regno. Siamo noi che distinguiamo, dice Rilke. Ed ecco che, giunto alla fonte, come viene chiamata, con un'immagine bellissima, sempre questa idea del rinnovamento, della fonte di vita, a cui il morto, che il morto raggiungerebbe alla fine della sua peregrinazione, ecco che l'idea è di farsi suggerire un'immagine, una metafora dai morti. E infatti Rilke dice: ma se risvegliassero i morti senza fine una metafora in noi, vedi, forse indicherebbero lievemente degli spogli noccioli penduli, oppure accennerebbero alla pioggia che cade sulla terra scura in primavera. E noi, che pensiamo a una felicità in ascesa, avvertiremmo la commozione che quasi ci sconcerta quando qualcosa di felice cade. Vedete questo ribaltamento totale. Noi immaginiamo sempre la felicità, la gioia, il raggiungimento di una quiete, di una pace a cui tutti ambiamo, come in fondo sempre un accrescimento. Noi abbiamo questa idea del fare degli scalini che salgono, accumulo potere, denaro, autorevolezza, prestigio, cose, amori. Dobbiamo salire. Saltare l'asticella, tutto dallo sport in poi, tutto quanto ci fa pensare a questa filosofia. Ma è una filosofia, dice Rilke, relativissima. Chi l'ha detto che anche il declino, che anche l'invecchiamento, che anche la perdita, che anche l'appassire, che anche il morire stesso, che coraggio a Rilke di guardare negli occhi, dritto in faccia, la nostra realtà. Ecco che la nostra finitudine, signora, questo nostro essere destinati a finire, forse non vuol dire finire. Forse è un rimando ad un altrove che non si può nemmeno accennare. È qualche cosa che solo la fede può dire per chi ce l'ha. Ma vi è forse appunto una condizione anche umana di chi accetta di essere uomo fino in fondo, anche nella malattia, anche nella perdita, anche nella sconfitta. Mi viene in mente un grande mistico, Meister Eckhart, sempre un tedesco, che diceva: l'uomo saggio nulla sa, un po' come Socrate, nulla ha, nulla vuole, nulla trattiene. Ecco, questo è il miracolo di quella bella genziana che Rilke porta, immagine splendida, la bella genziana che il poeta porta dalla montagna e che rappresenta appunto questa gratuità del vivere. Siamo dunque grati al mondo finché ne facciamo parte, e sembra, a detta di Rilke, che non si venga mai meno del tutto. Ecco, questa è la lezione che io ho cercato di far mia e di apprendere in questo volume, e termino qui per non annoiare le persone. Poi certamente e immediatamente sono ben lieto, saremmo ben lieti di rispondere nel nostro limite a qualunque domanda, ma vi invito davvero, non per Francesco Roat che non è nulla e che è solo un commentatore, di dare uno sguardo e di prendere in mano i prossimi giorni questo libro e di vedere, e di aprirlo in qualunque punto e di leggere una pagina e di vedere se vale la pena che ce lo portiamo su questo nostro comodino e ce lo leggiamo in quiete e in pace. Grazie Signore. Ecco, è sempre il punto dolente quando finisce un po' la cosa e nessuno vuole dire nulla. E invece, visto che siamo in una cornice qui così tranquilla e non faccio il professore, basta, eccetera, eccetera, mi piacerebbe che qualcuno mi dicesse qualcosa, al di là del Rilke e della cosa, sulla scrittura, sull'espressione, sul senso del leggere qualche cosa, non lo so. Mi viene in mente una frase molto bella, dov'è che ce l'ho? Ce l'ho qua? Di un libro di Cees Notenboom che diceva, ah, la classe, ve lo cito così a memoria, ah, dice, la classe alta, dice, nessun libro, non occorre dire altro. No, è l'idea, dice, Jaguar, Cricket, però dice, non, nessun libro in casa, non occorre dire altro. Ha già inquadrato, no, come gli autori, vedete, la bellezza di un autore, secondo me un autore è grande nel momento in cui, poi smetto, perché sennò continuo, nel cui riesce a cogliere, a fotografare, a inquadrare, a ditare qualche cosa in modo per noi eloquente. Ecco, la parola, ritorniamo ad una parola che non sia solo banalità. Siamo tutti stanchi delle polemiche televisive, dei battibecchi dei politici, del bla bla, ma veramente non è retorica, del bla bla dei giornali e anche di tanta letteratura di pura evasione, già bellissimi gialli, bellissimi, tutto quello che volete voi. Ma tornassimo un attimino a soffermarci su una parola che ci muove dentro, per usare questa bella immagine ricchiana. Questa è un'occasione per farlo. Ditemi voi qualcosina, signori. No, non vado via contento. Io mi sono innamorata di Rilke a 14 anni. Ah. Quando un colto amico di famiglia mi ha regalato questo libro. Guardi com'è consumato. Bello, bello. Consumato, rilegato, riconsumato un'altra volta. Ma io ho trovato che Rilke era un poeta molto sensuale. Ma quest'idea poi di dividere in due i poeti, quelli carnali, certo, per comodità di analisi così si può fare, Rilke simbolista, ma che cosa vuol dire simbolo in fondo? Alles vergängliche ist nur ein Gleichnis, dice, se non sbaglio, Goethe, no? Tutto ciò che è transeunte, tutto ciò che passa è solo un simbolo, no? In questo senso non possiamo fermarci al simbolo come qualche cosa che chiude, come una specie di gemma che racchiude in sé tutto. Il simbolo è un dito che indica la luna, ma non bisogna guardare il dito, bisogna guardare la luna. Perciò ogni definizione in realtà è una chiusura. Rilke è amantissimo del vivere, dell'amore, della vita, delle cose, per cui no, bisogna fare in modo che le cose ci appaiano sotto una luce non più viziata dalla nostra consuetudine, perché temo che tutti noi, io per primo, abbiamo lo sguardo logoro, lo sguardo appannato, lo sguardo stanco di chi non guarda più al mondo, con quell'innocenza che dicevo prima dell'animale, o del fanciullo. No, non è quella frase evangelica meravigliosa, se non tornerete come fanciulli non entrerete nel regno dei cieli, che non vuol dire assolutamente rimbambirsi, dice vecchio tornato bambino, per amor di Dio non è così, è un ritornare fanciullo in un altro modo, non vuol dire essere un povero innocente, come il beati pauperes spiritu, non vuol dire beati poveri di spirito, poverino ignorante, non capisce, è un poveretto, no. Il principe Siddhartha, che poi diventa Buddha povero, prima era principe, signori, prima bisogna essere, come dire, consapevoli perfettamente delle cose per superare. Userei dire qui la mia amica Maddalena poi magari mi tira le orecchie, bisogna per forza prima peccare e attraversare la nostra dimensione, quella che è di fallibili, per poter aspirare a che il limite, la colpa, la tristezza o il peccato, chiamatelo come volete, l'errore, possa essere superato. Guai a illudersi che basti l'eterna pura semplicità, l'eterna pura innocenza che necessariamente è destinata col reale a scontrarsi. Per cui non è così, deve essere un ritorno, deve essere un riacquistarla, lo sguardo. Un poeta puro rimane sempre un po' bambino, sempre bambino. Ed è giusto che sia. E ha sempre la meraviglia del bambino. Ed è giusto che sia. Appunto. Ma non è la nostra meraviglia quando a un certo punto al mare vediamo la sera appunto che cala o il sole o in ogni caso il tramonto e qualche cosa a tutti noi, poeti o non poeti, ci dice, ci detta dentro e non sappiamo nemmeno esprimere che cosa, oppure davanti a una montagna, quello che volete voi, non ha importanza quello che noi guardiamo. Al di là dell'immagine appunto della genziana che quello si porta a casa, non è questo. L'invito è quello di aprirsi e non di chiudersi alle cose. Persino, e lo dico, osa di aprirsi e guardare in faccia al dolore. E dice una cosa che gli psicologi potrebbero confermarci. E allora il dolore diventa meno doloroso, meno intollerabile, meno insopportabile, tra l'altro. Volevo chiedere una cosa. Prego. La figura del Engelpuppe, tradotto marionetta. Sì, la marionetta. Su cui insomma. Sì, vabbè, burattino, marionetta, quello sì, che vuole lei. È una figura, diciamo, beffarda, buffonesca, teatrale, che prende in giro questo povero uomo che si volge all'angolo, ma viene fulminato dalla bellezza. Allora, la scena delle marionette, che è all'interno dell'elegia dei cosiddetti saltimbanchi, Rilke la prese da un quadro di Picasso, che era in una, sì, di un quadro di Picasso, che era in una delle case delle tante signore nobildonne che lo vezzeggiavano un po', che lo ospitavano, ma è strana cosa. E c'erano questi santi, e Rilke è rimasto colpito, no? Questi giocolieri, queste audaci figure, come le chiama. E gli sembrava che questi saltimbanchi stessero componendo in aria la lettera D, la lettera del Dasein, dell'esserci. Però, dice dopo, in un certo senso, non sono riusciti a comporre il resto della parola. Cioè, è solo un momento d'artificio. E allora tutto diviene per il che teatro. Ma lui non lo vuole, questo teatro. Dice, no, io voglio appunto l'autenticità, andare oltre il teatro. Io voglio che si spengano le luci, io voglio che, come dire, vedere senza il sipario o lo scenario di mezzo le cose. Allora in questo senso tutto quello che è teatro, tutto quello che è finzione diventa un escamotage, come la birra Todlos, che la gente si illude di bere per inebriarsi. Non è questo, c'è un'altra bellissima scena, quella della periferia, dove c'è il tirassegno, dove c'è, noi oggi a posto del tirassegno, perché siamo qualche anno più, avremo il Gratta e Vinci, dove la gente si illude di trovare qualche cosa. Rilke dice, ed è terribile in questo, è molto, non illudetevi ragazzi, voi potete vincere tutte le lotterie che volete. Voi potete avere tutti gli amori che volete, li mettete, oggi poi è molto di moda metterli in fila uno dietro l'altro e poi cadono tutti, no? come dei birilli. Perché non vi fermate mai? Ma fermatevi un momento, in qualunque posto voi siate, fermatevi un istante, dite sì alla vita in quell'istante, siate consapevoli, siate felici qua e ora, in qualunque momento. È un insegnamento ardentissimo, ma bellissimo. C'è chi dice sono parole, io credo che invece questo lo si ritrovi in tutto un percorso, prima si accennava alla parola mistica, sia in Occidente che in Oriente. Ecco, io a proposito di questo mi premerei puntualizzare quello che diceva la signora, che il poeta in fondo è sempre un bambino. Non è così semplice, Il poeta è un bambino che vuole di più, perché non basta, come appunto puntualizza in questo ragionamento, il poeta ti dice fermati a guardare e cerca l'essenza di guardare. Il bambino è colpito dalla bellezza dell'immagine, il poeta è colpito, si lascia penetrare dalla bellezza dell'immagine, ma quella bellezza lo porta a qualcosa di più. E questo di più che il poeta ci indica è il bambino si ferma colpito dalla bellezza della luna, ma la luna chi l'ha fatta? Il poeta la interroga e c'è sempre scritto qualcosa più in là, dice Montale, ogni cosa porta, ogni visione porta scritto più in là. Ecco, il poeta in realtà ha uno sguardo di bambino, ma non lo è, cioè è sempre qualcosa di più. È consapevole. È consapevole e in ricerca, è colpito e va a cercare, fa quel passo oltre, che appunto è poeta, ma è il vero poeta, è quel qualcosa che poi si ferma e si sente di dovertelo far vedere, di comunicare. È dono la poesia, è donativa in sé. E la differenza, appunto, ribadendo, tra il fatto che l'ho definito più razionale e meno carnale, è proprio, se vuoi, il fatto che Rilke è sensuale, sì, ma questa sensualità, a questa sensualità lui cerca di dare un significato. Mentre molta, una parte della poesia appunto più femminile, più moderna, e il fatto stesso che ci sia sensualità, quella sensualità è generatrice e il significato si ferma lì, cioè è generatrice di altra carne, è una visione opposta, non ho detto che non sia sensuale, ma che va a cercarne la ragione e la indica, mentre se vuoi c'è un'altra poesia che si ferma prima, che si ferma alla sensualità e il significato resta lì. E io personalmente sono più rilchiana, lo apprezzo di più questo atteggiamento. Signori, io vi ringrazio moltissimo, speriamo che questo vi faccia avvicinare a questo grande, veramente grande poeta. Grazie, buona serata.